Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Alzo lo sguardo dai miei piedi e vedo che sulle pareti del corridoio, a distanza di una trentina di metri l'uno dall'altro, c'è una lunghissima fila di orologi tutti uguali. Io ne conto 9, per la precisione, e nessuno di questi segna l'ora esatta. Le 7.35, le 4.48, le 6.30, le 9.15. Mi chiamo Luigi Verga, ho 36 anni, vivo a Solaro, un piccolo paese in provincia di Milano, lavoro in un'azienda multinazionale, sono fidanzato con una bellissima persona e ho una grandissima passione per il teatro. Tutte le cose viste dal vivo e provate dal vero sono diverse che non lette su un giornale, viste alla TV o su una gallery di Repubblica.it o quella che è. L'esperienza però di entrare in un posto in cui la gente è chiusa dentro ed è chiusa a doppia mandata e la chiave non è stata buttata via, però la chiave non ce l'hanno loro, ma devono solo aspettare che passi il tempo per scontare la loro pena e uscire dal carcere, è veramente un'altra cosa, è proprio un'altra esperienza. Forse perché il concetto di libertà è un concetto sovraesposto ma sottocompreso, nel senso che non so quanti di noi realmente sappiano cosa voglia dire essere liberi, non so quanti di noi siano convinti di esserlo, quanti invece pensino di essere schiavi di chissà chi o di chissà cosa. Oggi però cerchiamo di parlare di questa cosa qua, lo facciamo con tutto il tatto possibile perché è un argomento delicato e perché tra le pochissime persone che ascoltano la radio e che non possono interagire mandando messaggi o mandando mail sono proprio quelle persone che sono chiuse in un carcere che non hanno cellulare e non hanno computer, però per un motivo che poi vi spiegherò anche più tardi so che moltissime di queste persone ascoltano la radio e ascoltano anche questo programma. 349 238 6666, oppure il profilo Facebook è Matteo Caccia, io sono qui, per scrivere una mail se invece siete davanti a un computer voi siete qui @radio24.it. È capitato anche a Luigi, che ci ha scritto un racconto e l'ha mandato qui. È capitato di entrare in un carcere per un motivo, chiamiamolo più o meno professionale, e quando entri in un carcere ti rendi conto che spesso quando si parla di carcere un po' lo si fa in maniera così, da gente che sta fuori, e un po' lo si fa da gente che l'ha vista alla televisione, quindi noi cercheremo di parlarne con la massima obiettività possibile, però la cosa che salta all'occhio alla fine è semplicemente una, che quando sei entrato lì una volta, ci sono anche andato a vedere uno spettacolo, però era il carcere di Volterra, che per chi mastica un minimo di teatro sa che la Compagnia della Fortezza è una compagnia di attori quasi professionisti, anche se sono galeotti, dove c'è un festival tutti gli anni, dove fanno spettacoli di altissimo livello teatrale, anche se poi... la mia sensazione è sempre che paragonarlo a uno spettacolo teatrale sia un errore, ma tant'è. Ogni volta, dicevo, che entri in un carcere, quando ci esci la sensazione è che tu stai uscendo e loro no, che è detta male ed è troppo semplice, ma sta tutto lì, che tu ci vai e poi te ne vai, e loro invece no. Se avete avuto mai la sensazione nella vostra vita che in qualche modo, chiunque, in qualsiasi situazione o occasione possibile, la vostra libertà vi sia stata tolta, 349 238 6666, voi siete qui @radio24.it. Sabrina ad esempio mi ha scritto: mio padre, ho avuto quella sensazione quando mio padre mi scrisse alle suore, non sopportavo la divisa, infatti stavo spesso in presidenza per i jeans strappati e tuttora non posseggo nulla di blu. Evidentemente quello era il colore della divisa. Fabio invece ha avuto quella sensazione per il servizio militare, e lo immagino per chi l'ha fatto. Chiara: non è chi ti toglie la libertà, è il senso di colpa che toglie ogni libertà. Chiara ci va giù pesante, il senso di colpa non c'entrerei adesso. Genera incapacità di reagire e di conseguenza frustrazione. Ci sentiamo troppo responsabili nel mantenere l'equilibrio che ci si è costruiti nel rapporto con gli... Niente, Chiara, andiamo dall'analista insieme una volta, ne parliamo. E Andrea mi scrive: l'argomento di oggi è ispirato dalla canzone di Dolce Nera. Dolce Nera ha fatto una canzone sul carcere? Appunto, era quello che dicevamo, no? Nel senso che un po' si parla di carcere e magari lo si canta anche, poi però immagino che le persone che stanno ascoltando in questo momento, magari da un carcere, si stiano facendo quattro risate o si stiano arrabbiando molto. Spero una cosa magari a metà. Claudio: ti senti sola con la tua libertà? E niente, qua siamo su di citazione di canzone oggi. E poi ancora: dopo la laurea volevo rimanerci a Milano e poi partire, prima Londra e poi i mercati finanziari emergenti dell'Asia. Ma arriva un giorno in cui qualcuno mi chiede aiuto, mi dice: abbiamo bisogno di te, se non torni vendiamo tutto. Come si fa a dire di no al proprio padre? Beh, direi che non si dice di no al proprio padre, e che quindi però forse non la prenderei nemmeno come una mancanza di libertà. Se invece è il caso di dire di no al padre, glielo si dice e lui non lo prenderà come una mancanza di libertà. Insomma, vale un po' tutto. C'è un posto a Milano che si trova esattamente all'angolo di una delle quattro mura del mercato. C'è anche il mercato del carcere di Milano, che è il carcere di San Vittore, uno dei pochi carceri che si trova nel centro di una città, dove i palazzi intorno, dove gli appartamenti intorno hanno qualcosa che valgono tipo 6.000 euro al metro quadro. C'è una piazza che si chiama Piazza L'Aquileia. Capita ogni tanto di passare da quella piazza e vedere gruppi di donne che in silenzio, rivolte verso alcune finestre del carcere da cui evidentemente si vede un lembo di quella piazza, fanno dei gesti, dicono delle cose e fanno dei segnali particolari. Sono le mogli dei carcerati all'interno di San Vittore che mandano messaggi ai propri mariti. È uno spettacolo abbastanza surreale. A me è capitato di vederlo due volte. Non so se ci sono dei momenti particolari, però se vi capita di passare da Piazza L'Aquileia in un'ora che di solito è attorno alle 7, 7 e mezza, soprattutto in estate, buttateci un occhio e cercate delle donne che fanno degli strani gesti con le mani. 349 238 6666, tutte le volte che vi è sembrato vi avessero tolto la vostra libertà. Questo è il racconto di Luigi. Non ero mai stato lì. Un palazzo grigio che da lontano sembra tanto una specie di alveare. Un grosso complesso residenziale pieno di appartamenti per poveri VIP. Una macchia di cemento che ha vissuto un conflitto di colore, tutto troppo grigio, quel color cielo di Milano in una brutta giornata di smog. Come se avessero esaurito i soldi prima di finirlo. Ma forse è proprio questo lo scopo: mascherarlo e camuffarlo. Renderlo un camaleonte perché nessuno lo veda passandogli a fianco. Io invece ieri l'ho guardato bene, perché la via per arrivare non la conoscevo e il navigatore sulle strade nuove mi abbandona sempre. E alla fine ci sono arrivato puntualissimo, anche se non ero a cavallo di una pantera con le sirene spiegate. Spaccavo il minuto, come da mesi non mi succedeva, padrone del mio tempo. Non ero mai stato in carcere. Sono andato in questo carcere perché mi è stato chiesto dalla mia fidanzata, che voleva vedere un suo amico sul palco. Lo spettacolo era organizzato da questa compagnia che, diciamo, per beneficenza andava a proporre questo spettacolo teatrale in carcere. Era la prima volta e un po' mi inquietava. All'ingresso c'era una discreta fila di persone, gente accalcata che spingeva per entrare. Un curioso paradosso. Mi metto anch'io in fila nello stanzino. Fa caldo, il rumore è fastidioso e l'odore anche. Alzo lo sguardo per controllare l'ora e fisso l'orologio a parete. È un orologio rotondo, uno di quelli che si appendono al muro con due bracci di metallo orizzontali, con le lancette che fanno rumore quando scatta il minuto. È esattamente uguale a tutti quelli che si trovano nelle stazioni dei treni. Grande e grosso perché possa essere visto da tutti i pendolari. Mi viene da sorridere. Un orologio per viaggiatori in un posto dove non si va da nessuna parte. I minuti passano, niente, gli attori ci dovranno aspettare. Mi chiedo che senso abbia fare uno spettacolo teatrale fatto da non detenuti in un carcere. Finalmente però entro. La guardia incomincia a camminare facendoci strada. Io cammino lentamente godendomi il fresco della sera e tutti mi superano. Avere fretta di entrare mi sembra veramente un paradosso. Dopo 200 metri mi trovo dentro l'edificio. Nell'atrio c'è una ludoteca per le famiglie quando vanno a fare visita ai detenuti. Un altro orologio che segna l'ora sbagliata. E poi il metal detector, che suona costantemente mentre la guardia non ferma nessuno. Cammino immerso nei miei pensieri. Alzo lo sguardo dai piedi e vedo che sulle pareti del corridoio, a distanza di una trentina di metri l'uno dall'altro, c'è una lunghissima fila di orologi, tutti uguali. Io ne conto 9, per la precisione, e nessuno di questi segna l'ora esatta. Le 7.35, le 4.48, le 6.30, le 9.15. Ricordo sicuramente le facce delle persone che camminavano lungo il corridoio insieme a me. Dall'iniziale ilarità delle persone si è passato un po' alla volta, come dire, allo stupore. E ricordo anche la faccia di un secondino, una faccia gentile ma che sicuramente dimostrava una certa fragilità nel gestire le persone. All'inizio mi viene da sorridere, poi però mi sembra tutto veramente brutto. cammino e non riesco a distogliere l'attenzione da quei quadranti bianchi e da quelle lancette ferme. E penso che questa cosa abbia un che di vagamente sadico. Quegli orologi alcuni anni fa, mi spiegano poi, si sono fermati a causa di un cortocircuito. Non li hanno più sistemati. Orologi che hanno smesso di funzionare in momenti diversi l'uno dall'altro. Dopo lo spettacolo ritorno lungo quel corridoio. Prego che un giorno quegli orologi tornino a funzionare. Sento una stretta alla bocca dello stomaco. Stringo la mano della mia fidanzata e mi sento fortunato. I'll find a better way someday. Leaving only me and my dreams. Yeah, one thing about this wild, wild country. Takes a strong, strong, breaks a strong, strong mind. Anch'io tempo fa sono stato in un carcere. Solo che ci sono stato per un paio d'ore e come ospite. Certo, non è la stessa cosa, però qualcosa lo vedi. È capitato quando facevo l'attore, anzi no, in realtà era prima che facessi l'attore, quando ancora facevo la scuola di recitazione. E niente, per fare un favore a un amico che lavorava come volontario lì a San Vittore, abbiamo messo in piedi una specie di lezione, in cui io avrei dovuto, e manco lo facevo l'attore, quindi figuriamoci, spiegare le tecniche che stavo studiando. E soprattutto raccontavo cosa succede quando provi a mettere in scena delle parole che sono scritte da un altro. È stata un'esperienza. E quello che mi ricordo è che mi sentivo tremendamente buono a farlo, perché non era da tutti, magari molti si sarebbero spaventati, e io invece no. Ero un cretino, ovviamente. Oggi, se mi si ripresentasse l'occasione, forse semplicemente penserei che sto facendo una cosa, e basta. Quella volta ricordo che mi ero preparato un monologo da Romeo e Giulietta, un pezzo romantico, perché pensavo che dovevo raccontare loro delle storie d'amore e non di violenza. E quindi, come spesso mi succede, mentre lo stavo per recitare, mi sono reso conto che avevo sbagliato tutto. All'ingresso ero stato accolto dai volontari sorridenti e le guardie mi avevano fatto lasciare ogni oggetto dentro una cassaforte. Avevo oltrepassato 4 livelli di porte, di quelle che non ne apri una se prima non hai chiuso l'altra. E mi ero accorto che quel posto non era poi così diverso da una scuola, solo che aveva le sbarre. Voglio dire, le luci, i colori delle pareti, i suoni erano del tutto simili a quelli del mio liceo. Era un momento di vivacità e i reclusi del braccio in cui mi avevano mandato godevano di una certa autonomia e giravano per i corridoi come degli studenti in recreazione. Sulle prime ero felice di sapere che anche lì dentro si potevano scambiare chiacchiere e avere delle attività. E solo dopo che ho capito che quelle erano le 2 o 3 ore che erano concesse alla loro piccola libertà. Siamo arrivati nella stanza dedicata all'incontro, al quale i partecipanti avevano dovuto iscriversi un mese prima. E ho scoperto che era grande quanto il soggiorno di casa dei miei. Entrarono lentamente una 20 di persone e si misero sedute sulle seggioline. E qualcuno sembrava anche ben disposto. Le avevano messe molto vicine di loro, tra di loro, e si misero a fissarmi mentre io stavo in piedi, lì, davanti alle sedie. Il volontario mi ha presentato e loro mi hanno salutato. Poi ho preso la parola. Non ero ancora un chiacchierone, e della verità non lo sono neanche oggi, ma di questo ne parliamo un'altra volta. E pensavo che sarei stato su un palcoscenico, no? A recitare un pezzo, a mostrare dei gesti. E invece ero in una stanzetta, insieme a 20 uomini, stanchi e vagamente incuriositi. Quindi ho pensato che se avessi recitato l'amore di un adolescente non avrei fatto un bel servizio. E se avessi spiegato loro come ottenere certi suoni usando il diaframma o la voce, manco quello. E allora mi sono detto, niente, o la va o la spacca. Mi sono tolto una scarpa, l'ho presa in mano e ho detto loro che dovevano pensare che quello fosse un teschio. E poi ho provato a ripetere il monologo dell'Amleto, quello sulla morte. Così, per sciogliere il ghiaccio e far capire che non ero venuto lì a vendergli il folletto, ma che anche io ero un po' preoccupato e pure un po' spaventato. Quando ho finito nessuno ha detto niente, nessuno ha cambiato espressione. Io avrei voluto solo scappare, solo che non si poteva, e quindi mi sono fatto forza e ho chiesto a loro, a ognuno di loro, come si chiamavano e perché erano lì. Ora, questa è una cosa che è abbastanza proibita. C'è un tacito accordo per cui nessuno spiega il motivo per cui è in carcere. Io però l'ho fatto. E loro alla fine hanno risposto. E quando hanno finito, ho preso una sedia, mi ci sono seduto e ho cominciato a chiedere a quelli di cui mi ricordavo il cognome com'era vivere in carcere. E lì è stato come aprire una diga. Hanno cominciato a raccontarmi tutta la loro giornata tipo. E quando finiva uno, cominciava l'altro, senza litigare, senza sovrapporsi, senza urlare. Mi parlavano del cibo, della televisione, delle lettere e della radio, dei passatempi e del freddo. Mi parlavano della loro vita che li aspettava fuori e della vita che vivevano là dentro, delle preoccupazioni per i loro parenti e della giustizia. E io li ascoltavo annuendo. Finché, in un attimo, sono finite le nostre 2 ore e io sono stato ricondotto fuori, loro invece no. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine. Non a tutti capita di andare in carcere. Diciamo, alcuni sono proprio sfortunati e ci finiscono, o semplicemente fanno degli errori e ci finiscono, e ad altri invece capita, per dei giri strani della vita, di passarci qualche volta da un carcere. A me era capitato, prima di quello che vi ho raccontato, di andare in realtà in un ospedale carcerario, che non è esattamente la stessa cosa. Nel caso di Luigi, invece, in carcere c'è finito per un motivo ben preciso. Pronto, Luigi? Pronto. Ciao, come stai? Ciao Matteo, bene, grazie. Senti, dicevamo, tu sei finito in carcere per un periodo breve, innanzitutto, per fortuna, e poi per un motivo che ha a che fare con quello che dicevi all'inizio del programma, giusto? Che è la tua passione per il teatro. Sì, assolutamente. Sono andato appunto a vedere questo spettacolo un po' per passione teatrale e un po' per perché sono stato invitato dalla mia fidanzata ad andare a vedere un ragazzo che recitava sul palco, un ragazzo non carcerato, e quindi sono finito lì un po' per caso, diciamo. Ma quindi, scusami, la tua fidanzata, anche lei fa attività teatrale, oppure? Esattamente, ci siamo conosciuti proprio all'attività teatrale, cioè finalmente, no, qualcuno che testimonia che alla fine il teatro lo si fa e lo si è sempre fatto per quel motivo lì, no, per rimorchiare più o meno. Non lo dico io, lo dice un drammaturgo famosissimo, di cui ovviamente adesso non mi viene il nome, ma che mi verrà a breve. Quindi vi siete conosciuti, eravate già insieme, oppure tu hai usato la tecnica del carcere, del tipo faccio vedere che sono uno duro, vado anche in carcere a vedere uno spettacolo teatrale? No, ci conoscevamo già prima, okay. Quindi ci siamo conosciuti appunto facendo delle improvvisazioni teatrali e poi niente, la storia è andata avanti. Come si chiama il gruppo o la scuola di teatro? Allora, la mia associazione teatrale si chiama La Moquette. E dove si trova? Perché? Perché si chiama La Moquette? Scusa. Si chiama La Moquette, tra l'altro poi insomma c'è anche il sito, se vuoi qualcuno curioso può anche andarci. Qual è? Lamoquetteteatro.it? Lamoquette.it. Ah, proprio Lamoquette.it, cioè vuoi dirmi che non esiste una casa produttrice di moquette in Italia che è un sito che si chiama Lamoquette.it? Esattamente, e la spiegazione del termine è molto semplice. Ci piace l'idea della moquette, di come dire, come quel materiale che assorbe la vita che gli sta intorno, rimane comunque moquette, ma come dire, vive la vita perché è la vita che gli sta intorno, no? Certo, quindi dalle briciole alle zanzare dell'estate prima, più o meno. Anche quello, e quindi ogni attore per noi deve essere anche un po' quello, capace di vivere la vita, di farsi vivere ogni tanto, ma ogni tanto poi sul palco restituire quello che ha vissuto. Quindi. Senti, e che tipo di spettacoli fate voi della moquette? Facciamo un po' di tutto, da produzioni nostre a spettacoli di vario genere. Ma quindi persone. Parliamo di, cioè, testi vostri, oppure fate riferimenti ai classici o a che so? Guarda, in questo momento stiamo ospitando dei ragazzi che stanno portando spettacoli costruiti da loro, attori proprio, diciamo, professionisti o professionisti, sì, che portano i loro spettacoli. Ma dov'è la sede della Moquette? È a Solaro. A Solaro, che è il tuo paese, cioè la tua città. È il mio paese, esatto. Paese o città? Quanti abitanti ha Solaro? Ma sui 13.000-14.000 se non è. Solaro fa parte, per chi non lo sapesse, di quella enorme cintura che sta a nord di Milano, giusto? Esatto, esattamente. Che, per cui in realtà i paesi piano piano sono diventati uno attaccato all'altro, non è che uno li riconosca molto bene. Sì, sì, sì, sì, più o meno. Siamo fuori dall'interval, siamo appena sopra. Senti, invece, torniamo a quel giorno in carcere. Che carcere era? Che spettacolo era quello che hai visto? Allora, il carcere era appunto il carcere che c'è qua in zona, che è il carcere di Bollate, e siamo andati a vedere Un sogno di una notte in mezz'estate. Ma con un attore solo? No, ah, c'erano okay, più persone, ma noi conoscevamo solo una persona. Uno degli attori. Sì. Carcere di Bollate, che è uno dei più famosi e delle eccellenze dei carceri italiani, sbaglio, no? Confermo, al di là della, come dire, dell'impatto negativo dovuto a quello che hai raccontato. Di cui parli, sì. Il carcere di per sé all'interno è molto, sembra molto a misura d'uomo, quindi sembra un'eccellenza effettivamente. Senti, ma sai se loro fanno attività teatrale oltre ad ospitarla? Non lo so, so che sono altre compagnie sono andate dentro a fare appunto degli spettacoli, ma non so assolutamente se facciano attività teatrale. Luigi, senti, l'ultima cosa e poi ti saluto. Lavori per una multinazionale, cosa fai? Mi occupo del personale. Ok, fate robe illegali? Facciamo cose legalissime. Va bene, Luigi, ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera e per il racconto. Grazie a te, Matteo. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Grazie, ciao, ciao. Buona giornata. Ciao. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. E all'aria aperta, Luigi, nella fotografia che ci ha mandato, si trova in montagna, c'è un in alto, credo, non in altissimo, è comunque estate perché è vestito leggero, ha in mano delle racchette per... racchette o bacchette? Come si chiamano? Vabbè, quelle che si usano per salire equilibrando, credo, il peso, o scaricando, credo, il peso. Lui ha su un pile rosso e dei pantaloni da montagna, ha le braccia aperte, quasi fosse un Cristo in croce, però con le racchette, e davanti a sé montagne, nuvole e cielo azzurro. Ecco, forse la massima espressione del concetto di libertà. Quando si pensa ad un'immagine, dico la prima che viene in mente a me, che ho scarsa fantasia, che mi dicono prova a pensare alla libertà, mi viene in mente o il mare o la montagna. Vabbè, vi chiedo scusa. Paolino, ti chiedo scusa perché vedo dalla faccia che hai sei abbastanza rammarico. Più il mare perché tu sei di Senigallia, tant'è, io sono di Romentino, e quindi o mi viene in mente il Ticino o mi viene in mente la Valsesia. 349-238-6666, la sensazione che vi avessero tolto la vostra libertà. La libertà me l'hanno tolta il primo giorno di lavoro in fabbrica, mi è stata ridata 3 mesi dopo, alla scadenza del contratto. Ora sono l'agente di commercio, e l'agente di commercio è la quintessenza della libertà. In auto e via! E a lei, e quanti agenti di commercio ci saranno all'ascolto? Facciamo un appello, agenti di commercio all'ascolto, dove siete e dove andate? 349-238-6666. Sono stato in un carcere minorile per una bravata, mi sono fatto 21 giorni. Posso dire con certezza che hanno cambiato la mia vita in meglio. Strano, ma la sensazione di libertà era palpabile anche guardando le persone che passeggiavano poco lontano dalla mia cella. Francesco. E poi ancora, alcuni rapporti umani e amorosi ti tolgono la libertà, però no ragazzi, diciamo, ognuno di noi, no, fa quello più o meno, soprattutto per quanto riguarda aspetti sentimentali, quello che riesce, quello che vuole, quello che può, le cose si fanno in due, però no? E infatti l'altro dice basta fidanzarsi per provare quella sensazione. Per caso mi hanno bloccato per un'ora in questura, panico e claustrofobia, male, tanto male, Fede. In comunità maschi ci sono due categorie di messaggi che amo. Primi sono quelli fuori contesto, i secondi sono quelli che non capisco. Capiamolo insieme. In comunità maschi maglietta bianca, ragazze blu. Pietro. Allora, per Pietro il concetto che gli avessero tolto la sua libertà aveva a che fare che quando era in comunità, qualsiasi comunità fosse, i maschi avevano una maglietta bianca, le ragazze una maglietta blu. E poi invece, terza categoria, che però non amo moltissimo, messaggi, luoghi comuni. E sono, quelli in carcere sono più considerati di quelli che hanno subito un reato, se non avessero infranto la legge sarebbero fuori, ma ancora, poverini questi pedofili, spacciatori, tossici, stupratori, che non sanno come far passare il tempo, e io lavoro e pago le tasse per il cibo in prigione. C'è anche un mava finale. Ecco, allora adesso per così aumentare questa categoria, mi piacerebbe avere messaggi che riguardano le mezze stagioni, sul cibo nelle mense. Il cibo nelle mense fa sempre schifo. Poi, vabbè, le donne sono tutte uguali, no? Le donne sono tutte uguali. Altra categoria, sempre luoghi comuni. Non ci sono più gli inverni di una volta. Questa è la dimostrazione. Primo di marzo è già primavera. E un ultimo, direi che i neri hanno il ritmo nel sangue. Ok? Quindi messaggi su luoghi comuni, dopo il carcere, i carcerati, di queste categorie, e vi ringrazio. 349-238-6666. Quando abbiamo parlato di carcere, quando abbiamo parlato di questo racconto e quando abbiamo parlato dei luoghi comuni che si rischia di affrontare, vi chiedo scusa se l'ho fatto anche io quest'oggi, Tiziano invece mi ha raccontato di una ricerca che lui ha fatto passando nel 2007, una ricerca di sociologia dei media, giusto? Cioè era una ricerca che Tiziano ha fatto per capire l'uso che viene fatto della radio, visto che di questo si occupa, oltre a fare questo programma Tiziano, l'uso che si fa della radio nelle carceri, nelle celle, dell'uso che fanno i carcerati. È stata una ricerca che è durata 6 mesi, ci è andato 12 volte, mi diceva, San Vittore, giusto? Ed è stata poi pubblicata, perché non è vero che la ricerca in Italia non funziona, su una rivista? Si chiamano riviste? No, pubblicazioni. No, come si chiamano? Riviste. Una rivista inglese che si chiama Media Cultural Society. Tiziano ha raccolto diverse testimonianze che parlano appunto della radio, ma dicono qualcosa anche della libertà. La vita, la quotidianità, per me è questa. Ripetitiva. Rumori, cancelli, gli stessi odori, gli stessi colori. La quotidianità, al di là dal muro, la senti così. Il traffico, le notizie del traffico. Mi fa ridere molto la A4, che c'è sempre traffico. Io rido lì. Mi immedesimo quando ero lì ad Agrate, al casello. Io lì rido. Il tempo, la quotidianità, quella che non ho modo di assaporare. Marcello. A volte, se la giornata è bella, ascoltiamo quasi tutti la radio. Abbiamo la possibilità di amplificare col Walkman. Abbiamo fatto una cosa furba. Lo colleghiamo alla televisione per sentirlo amplificato. È un momento di festa quello, perché magari c'è della musica che acchiappa un po' tutti, fino alle 9, quando qualcuno poi va all'aria o alla doccia. Dopodiché, basta. Claudio. L'ora d'aria... No, ginnastica non ne faccio. Un altro momento d'ascolto è quello lì, però, l'ora d'aria. Lì però diventa più un uso comune, nel senso, all'aria tu puoi scendere, no? Parliamo d'estate, perché d'inverno diventa difficoltoso. Magari uno normalmente si mette l'auricolare, perché all'aria poi d'inverno passeggi e basta. D'estate invece l'aria diventa una specie di Palm Beach dei poveri, per cui tutti scendono con l'asciugamano, e te lo garantisco che almeno uno con la radio c'è sempre. E alla fine la mette nell'angolo a tutto volume e la si ascolta tutti. Praticamente succede tutti i giorni. Parlo della bella stagione, eh? Quando vai all'aria c'è sempre una radio che va. Francisco. Però la radio qui in carcere è una cosa molto personale. Ci sono dei momenti dove ci si trova tutti insieme e si fanno delle cose dove la radio va anche bene, ma per il resto uno l'ascolta per i fatti suoi. Proprio perché con la radio è anche un momento di stacco. Poi qua c'è pochi momenti che sei per i fatti tuoi e puoi veramente pensare ai fatti tuoi, che puoi staccare. E allora ti metti le cuffie, ti estranei un attimo e stai da solo, lontano da tutto quello che è il contesto della cella. Davide. E poi alla sera. Io trovo che la radio sia bella dalle 9 di sera in poi, quando sei tranquillo e disteso nella tua stanza, con le cuffie, anche se ci sono gli altri, eh? E lì la radio ti permette di isolarti. Di evadere, di entrare nel mondo dello speaker, in base a come parla, o a quello che dice, o all'argomento che tratta, ti porta anche in un mondo, e allora viaggi tantissimo, perché mi immagino lo studio e tutto il resto. E viaggi, Miguel. This is how it works, it feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd, while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love and never come again. Tom Stoppard era il drammaturgo che diceva, che dice ancora, che il teatro lo si fa per un unico motivo, che è conoscere le ragazze. Questo appartiene alla categoria di luoghi comuni a cui oggi stiamo veramente, da cui stiamo cogliendo a piene mani. Ringrazio quelli che hanno scritto così, e magari quei due che hanno scritto le robe sul carcere sono pronti per sapere che c'è la nebbia a Milano, che il nuoto è uno sport completo, che una volta qui era tutta campagna e che gira gira sono sempre gli stessi che pagano. Grazie anche agli agenti di commercio che hanno riempito di SMS, evidentemente la strada è lunga. Grazie a Tiziano Bonini, a Stefano D'Andrea, a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. La storia di oggi era quella di Luigi e parlava di carceri. La storia di domani è di Graziella e parla di genitori tecnologizzati. Un tempo dopo pranzo si giocava tutti insieme a tombola oppure si faceva una partita a carte. Oggi mia mamma non partecipa più a queste attività. È sempre al computer. Mio fratello ha trovato un'ottima forma di comunicazione con nostra mamma. Le invia dei messaggi privati tramite il suo portatile. Parlano sul computer da una stanza all'altra della casa.